La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alle polemiche scaturite dalla proposta di legge firmata da 19 deputati del PDL, guidati da Gabriella Carlucci, in cui si chiede l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'imparzialità dei libri di testo scolastici. Ascoltiamo a riguardo i pareri di due storici, il professor Giovanni Sabbatucci, docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, e la professoressa Elena Agarossi, docente di storia contemporanea all'Università dell'Aquila. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Occorre porre un rimedio ai tentativi subdoli di indottrinamento di alcuni libri di storia che plagierebbero gli studenti per fini elettorali. È la premessa di una proposta di legge firmata da 19 deputati del PDL, guidati da Gabriella Carlucci, di cui si è parlato nei giorni scorsi sui giornali, in cui si chiede l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla imparzialità dei libri di testo scolastici. La motivazione sarebbe che buona parte dei libri offrirebbe una versione ufficiale della storia e dell'attualità asservita a una parte politica, vale a dire all'attuale centrosinistra. Non è la prima volta, per la verità, che si assiste a una polemica tutta politica sull'insegnamento di una materia fondamentale, quale la storia, che al contrario, a nostro avviso, dovrebbe essere in qualche modo sottratta alle dispute tra gli schieramenti politici. Non che la storia e l'insegnamento della storia possano considerarsi, come dire, neutrali o neutri. Il punto è stabilire se sia vero oppure no che in alcuni libri di testo prevalga una linea più favorevole a una tradizione culturale piuttosto che all'altra. Ma è l'occasione anche per fare una riflessione complessiva sull'insegnamento della storia oggi. È comunque l'argomento di grande importanza e per questo vale la pena di ascoltare l'opinione dei diretti interessati. Per questo abbiamo pensato di offrirvi il punto di vista di due illustri docenti, il professor Giovanni Sabbatucci, docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Buonasera professore. Salve, buonasera. E la professoressa Elena Agarossi, docente di storia contemporanea all'Università dell'Aquila. Buonasera professoressa. Buonasera. Grazie a entrambi per aver accettato il nostro invito. Allora, prima di tutto vi chiederei, anche se per noi costituisce solo un elemento per approfondire un discorso un po' più ampio, qual è il vostro punto di vista su questa proposta di legge? Professoressa, cominciamo da lei. Sì, ma sembra che periodicamente si ritorni a questo discorso di poter sanzionare la libertà di stampa, che è veramente contrario ovviamente alla nostra, a qualunque regime democratico, il fatto di poter parlare e dire espressamente la propria opinione. Questo difatti fa impressione, a mio parere, il fatto che ci siano ben 19 persone che firmino una tale proposta di legge. Ecco, il professor Giovanni Sabbatucci che ne pensa al riguardo? Beh, penso anch'io le stesse cose. Ovviamente si può discutere sul merito di ciò che è scritto in alcuni libri di testo. Aggiungo che le cose scritte sugli ultimissimi eventi, sul governo Berlusconi o altro, sono in realtà una parte molto breve e per lo più così molto sintetica, diciamo, di un testo di storia, e per lo più a scuola non se ne parla mai, quindi il problema da questo punto di vista è abbastanza marginale. Ma il problema non è il contenuto di quei libri, è il fatto che si possa solo pensare di mettere su una commissione, chissà da chi poi composta, che prende i libri, li esamina e dice se vanno bene o non vanno bene. È una cosa assurda. In realtà sono i professori, con l'aiuto dei genitori, che scelgono i libri di testo. Finché c'è questa libertà, sono tutte chiacchiere inutili. Se poi si vuole abolire questa libertà e tornare al libro di Stato oppure a una rosa di libri scelti da una commissione, lo si dica chiaramente, ma questa è una proposta, come è stato appena detto, profondamente illiberale. Ecco, ma a questo riguardo sorge un interrogativo. la storia, per come l'abbiamo imparata tutti noi, è una materia che tratta di argomenti sui quali, come dire, si è un po' depositato il tempo, e dunque gli storici, come voi due siete di professione, possono esercitare appieno le loro riflessioni su eventi accaduti un certo numero di anni fa. Allora, quando sui libri di storia sono trattati eventi invece più recenti, forse è lì il problema, magari cercare di interpretarli con la lente dello storico, ma sono fatti che comunque hanno una rilevanza ancora nell'attualità e dunque sono tutti esposti alla polemica politica. Non credete che questo sia un problema, professoressa? Sì, ma insomma, no, il problema c'è sempre, si può essere d'accordo su anche avvenimenti molto passati. Certamente quel collegamento, per esempio, sulla questione, diciamo, tra sinistra e destra, ci sono alcuni argomenti, c'è stato nei libri di storia per molto tempo un bias in favore, diciamo, dell'Unione Sovietica, del Partito Comunista e via dicendo, che c'è un po' ancora, nonostante ci siano 20 anni, siamo passati 20 anni dal crollo dell'Unione Sovietica. Faccio un piccolo esempio: non si parla, si parla poco dei gulag, si parla pochissimo, insomma, del ruolo anche negativo del Partito Comunista, ma solamente invece del ruolo positivo e così via. Ma detto questo, non si può impedire alle persone di scrivere o di dire quello che vogliono, che pensano. Il problema è cercare di dare più possibilità, e quindi, cioè, scrivere libri, se i libri manuali che non vanno bene da adesso, bisogna trovare qualcuno che scrivesse dei manuali più obiettivi. Certo. Oppure, e poi il discorso, secondo me, si dovrebbe allargare anche a un discorso praticamente di difficoltà di capire le ragioni degli altri. C'è un bellissimo editoriale di Pane Bianco pochi giorni fa sul Corriere della Sera, qui si diceva che destra e sinistra, un elettore di destra e un elettore di sinistra non si parlano sostanzialmente, e un po' è così. Devo sì. dire, cioè non si ascolta le ragioni degli altri, tutti e due pensano che l'altro sia un demente oppure un ignorante oppure un sempliciotto, eccetera eccetera, quindi è anche difficile riuscire a superare questa incomunicabilità tra le due parti. E in questo senso anche devo dire che i media hanno una loro responsabilità, perché poi continuano un po' a ricalcare le stesse divisioni così tra le due parti così forti. E a questo proposito, professor Sabatucci, non ritiene che forse sia venuto il tempo anche da noi per cercare di arrivare quantomeno a una storia condivisa? Spesso si dice la memoria condivisa, a mio avviso è corretto che le memorie restino separate, ma almeno che si arrivi a una storia condivisa, cioè che siano fatti certi e inequivocabili avvenuti sui quali non c'è molto da discutere. Mi riferisco ad esempio alla famosa guerra della memoria, così come è stata definita a proposito degli eventi successivi all'8 settembre del 43, tanto per citare un caso. Ma io alla storia condivisa non ho mai creduto molto più di quanto non creda alla memoria condivisa. Anche la storia è e deve essere, giusto che sia, un luogo di dibattito, un campo di tensioni, un luogo in cui appunto si discute e non si finisce mai di discutere. Altro è il problema appunto invece quello che è il percorso istituzionale di quella che è la memoria ufficiale, quella per cui il Presidente della Repubblica o le autorità politiche celebrano le date fondanti della storia nazionale. Lì è giusto che vi sia una forma di condivisione che in parte c'è, ma che viene continuamente tirata dall'una e dall'altra parte. Per quanto riguarda la storia, il dibattito non finirà mai, e io penso che i libri di storia dovrebbero, per quanto possibile, riportare anche questo dibattito, quantomeno questo carattere controverso, mai stabilito una volta per tutte, anche delle verità storiche. Voglio aggiungere una cosa, questa idea a proposito di quello che diceva prima, circa gli eventi recenti che non sarebbero oggetto di ricostruzione storica, non è detto che sia così, non è sempre stato così. Quando Croce scriveva la storia d'Italia dal 1871 al 1915, parlava di cose successe 12 anni prima, quindi in realtà si è sempre fatta, ma questo è un esempio, se ne potrebbero fare tanti altri, si è sempre fatta, ho cercato di fare storia anche delle cose recenti, magari di quelle recentissime è più difficile, però ripeto, nell'insegnamento della storia, che tra l'altro è sempre più sacrificato, almeno in alcuni ordini di scuole, queste ultime pagine dei libri di testo in genere non vengono neanche lette, quindi è un problema anche da questo punto di vista, secondo me, piuttosto futile. Vi chiederei un ultimo commento sulla circostanza che quest'anno noi celebriamo alcuni anniversari, lo ha ricordato anche il presidente Napolitano l'altro giorno, il 150enario dell'Unità Nazionale e poi ancora l'anniversario del 25 aprile. Sono eventi, secondo voi, che nei libri di storia vengono trattati quantomeno in modo da offrire a chi legge, all'opinione pubblica, agli studenti, una visione il più possibile equanime di quello che è avvenuto? Professoressa? Ma sì, sì e no, perché ovviamente le due cose sono diverse. Se si parla del Risorgimento, a parte le polemiche recenti, io penso che i libri di storia siano trattati in un modo obiettivo. Per quanto riguarda il 25 aprile e la Resistenza, c'è ancora un po' di disequilibrio, diciamo, perché si parla sempre della Resistenza, si parla molto poco della Campagna d'Italia, cioè del contributo che alla Resistenza hanno dato gli eserciti alleati, insomma un contributo, diciamo, decisivo, mentre se uno interroga, mi è capitato, dei ragazzi, questi sono convinti che l'Italia è stata liberata dai partigiani, insomma, ecco. Quindi capisco anche che sia importante mantenere dei miti, però ecco, dopo un certo numero di anni anche questi dovrebbero essere riassorbiti in una visione più equilibrata. E ad esempio, professor Sabatucci, anche il contributo che i militari hanno dato alla liberazione, il presidente Napolitano ha fatto riferimento proprio lunedì scorso a questo, e forse è un aspetto non molto approfondito anche nei libri. Sono in grado di dire in quali libri e quanto, però è vero quello che ha appena detto Elena Garossi, cioè che c'è una versione, come dire, dominante, una vulgata che accentua certi aspetti e ne trascura degli altri. È anche un po' fatale che sia così, in parte perché noi abbiamo a che fare con eventi che tendono a essere trasfigurati in una dimensione un po' mitologica, parliamo del Risorgimento come della Resistenza, e allora noi dobbiamo avere la capacità, l'equilibrio di tenere fermo il valore anche simbolico di certi eventi, di certi momenti alti della nostra storia, senza per questo sacrificare la dimensione della conoscenza storica, che è sempre una conoscenza critica e che non deve mai fermarsi di fronte ai luoghi comuni, alle immagini consolidate. È un equilibrio difficile, ma noi dobbiamo cercare di mantenerlo. Anche a proposito del Risorgimento, tutti si abbiamo accolto con favore questa ripresa di entusiasmi patriottici in occasione delle celebrazioni del 17 marzo. In quanto storici, in quanto studiosi, non possiamo fermarci qui, però dobbiamo cercare, fare in modo che anche la conoscenza specifica di quei fatti faccia dei passi avanti e si approfondisca, che non rimanga tutto in una dimensione celebrativa che spesso appunto sacrifica questo o quell'aspetto. Bene, molte grazie, vi ringrazio molto per il vostro contributo. Buona grazie. Serata. Grazie. Arrivederci.